Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Piccola premessa per questa nuova puntata del Cacciatore di Libri: come potete sentire, la mia voce non è al massimo, insomma i classici mali di stagione, però naturalmente le interviste che abbiamo realizzato sono state registrate, quindi ci sarà una qualità della voce migliore. Oggi vi parlo di una delle scrittrici americane più apprezzate. Nel 2009 ha vinto il premio Pulitzer con il romanzo Olive Kittredge, dal quale fu tratta anche una serie TV, trasmessa anche in Italia. La sua scrittura, netta e pulita, viene spesso paragonata a quella della canadese Alice Munro, Nobel nel 2013. Stiamo parlando di Elizabeth Strout, ora in libreria con Tutto è possibile, pubblicato in Italia da Einaudi con la traduzione di Susanna Basso. Si tratta di una serie di storie che, diciamo, si intrecciano fino a formare un romanzo. Il filo conduttore è Lucy Barton, un personaggio che era già comparso in un altro libro, Mi chiamo Lucy Barton. Quindi diciamo che abbiamo a che fare con una sorta di sequel. Lucy ha lasciato un paesino dell'Illinois, Amgash, e si è trasferita a New York. Torna in questo paesino dopo essere diventata scrittrice e aver pubblicato un romanzo sui suoi concittadini. Insomma, è loro come l'avranno presa. Ecco, in questo Tutto è possibile si raccontano le storie di alcuni degli abitanti di Amgash, e che sono storie di solitudini nell'America rurale, come fa spesso la Strout. Ne emerge una sorta di biografia collettiva di tutte queste persone che girano intorno appunto a Lucy Barton e al suo romanzo. Come dicevamo, Lucy Barton era già protagonista di un altro romanzo della Strout. Ma questo perché l'autrice aveva ancora bisogno di dire qualcosa su di lei o le serviva da collante per le varie storie? La parola di Elizabeth Strout. Well, I wanted to give her background. Beh, volevo darle un passato. Volevo mostrare un po' di più da dove venisse e cosa stessero facendo oggi. Il modo in cui alcuni personaggi sono cresciuti, come sono le loro vite, e quindi ho voluto fare entrambe le cose, continuare la sua storia, ma anche andare indietro. Quindi, sì, lei rappresenta il legame. Non è così frequente che un autore di romanzi riprenda un personaggio già comparso. Succede nei gialli con i personaggi seriali, ma non nei romanzi o nei racconti. Come mai lei ha deciso di farlo? I think I wasn't done with her, and I started this book. Credo perché non avevo ancora finito con lei. L'ho cominciato quando stavo scrivendo Mi chiamo Lucy Barton, quindi scrivevo pezzi di scene riguardanti le persone di cui lei e sua madre parlavano in ospedale. Questo perché ero interessata a questi due personaggi e pensavo, cosa gli succederà adesso? Mi dicevo, vediamo che succede. E quando ho finito di scrivere Mi chiamo Lucy Barton, mi sono resa conto che l'intero libro era fatto. In Il mio nome è Lucy Barton avevamo imparato a conoscere parte della vita, anche del passato di Lucy Barton, del passato problematico, del passato di dolore, di sofferenza. In questo Tutto è possibile conosciamo altre cose su di lei, eppure al lettore resta la sensazione di non averla compresa fino in fondo, come se ci fosse ancora un'ombra su di lei. È così? Well, the Lucy Barton's voice in My Name is Lucy Barton, it's her voice. La voce di Lucy Barton in Mi chiamo Lucy Barton è la sua voce che racconta la storia, ed è una voce molto particolare che io dovevo ascoltare attentamente mentre stavo scrivendo. Volevo lasciare dello spazio tra la sua voce e il lettore, in modo che il lettore potesse portare tutto ciò che voleva dentro la storia. Cerco di farlo con ogni libro, ma in particolare con Mi chiamo Lucy Barton. Volevo che il lettore portasse la sua esperienza personale e che in un certo senso riempisse i vuoti. Inoltre, la voce di Lucy sta ad indicare che lei non è completamente sicura di parti del suo passato, così come lo siamo un po' tutti, non troppo sicuri di parti del nostro passato. Ma questo vuol dire che ci saranno altri romanzi in cui tornerà a parlare di Lucy Barton? I don't think so. I mean, not right now. Non ora, non credo. Non lo so, ma non si può mai sapere. Tutto è possibile. Anything's possible. Questo libro è fatto di tanti racconti che però costituiscono alla fine un romanzo, appunto il punto di congiunzione è Lucy Barton, il fatto che lei ha pubblicato un romanzo, è una scrittrice famosa e che torna nel suo paese di origine. Come gli abitanti del suo paese reagiscono a questo libro che racconta delle sue origini? Right, well, there's a number of different reactions. You know, Tommy Guptill feels proud of her and... Ci sono reazioni diverse. Tommy è orgoglioso di lei. Patty compra il libro. Invece sua sorella Linda, che ormai vive lontano da Amgash, non vuole avere niente a che fare con Lucy e con tutti gli abitanti della cittadina. Ne è disgustata. La sorella di Lucy Barton ha problemi con Lucy, ha dei problemi con il successo di Lucy. Quindi diciamo che c'è tutta una gamma di risposte diverse. Eppure ci sono delle persone che si sentono comprese da quello che Lucy Barton racconta in questo romanzo. Right, Patty Nicely especially gets a great comfort from the book. Specialmente Patty. Lei trae grande conforto dal libro perché si rende conto che il proprio senso di vergogna sul suo passato era in qualche modo gestibile. Mentre leggeva il libro, si accorgeva che anche Lucy condivideva quel senso di vergogna. Quindi Patty ha sentito come se avesse un'amica all'interno del libro. È molto strano il rapporto che c'è fra Lucy Barton, la sorella Vicky e il fratello Pete. Quando si rivedono c'è, come dire, una strana tensione fra loro. Tra l'altro Pete, appena vede Vicky, solo in quel momento si rende conto che Vicky è una donna obesa, è una donna grassa, come se non l'avesse mai vista veramente nel corso degli anni. Come si relazionano fra loro? Well, Pete sees Vicky almost through Lucy's eyes. Pete vede Vicky quasi completamente attraverso gli occhi di Lucy in quel momento, perché Pete e Vicky si vedono sempre, lui è abituato a lei, è molto abituato a come lei appare. Non ha mai fatto caso al fatto che sia grassa, ma quando compare Lucy, che è minuta, allora Pete vede Vicky quasi solamente attraverso gli occhi di Lucy e si rende conto che Vicky è grassa. Lucy's eyes and realizes, oh, she's large. Nei suoi libri quasi tutti i personaggi hanno sempre un passato doloroso dal quale cercano di allontanarsi o che cercano di superare in qualche modo. Penso a Liv Kittredge, ma anche ai ragazzi di Burgess e così via. Anche in Lucy Barton, Il mio nome è Lucy Barton e tutto è possibile. Perché le piace così tanto indagare su questi personaggi che hanno, appunto, che si portano dentro un dolore profondo? I think because I think about people's past has so much to do with who they become. Penso perché sono convinta che il passato delle persone influisca molto su quello che le persone sono diventate. Quindi, come scrittrice, sono sempre interessata a ciò che fa dei miei personaggi quello che sono, e solitamente è qualcosa che appartiene al loro passato. Il passato determina il modo in cui agiscono nel presente. Per esempio, il luogo dove sono nate, le cose che succedono, specialmente da giovani, vanno poi a scontrarsi con ciò che siamo diventati. Ecco, questo è quello che attira il mio interesse come scrittrice. Spesso i suoi personaggi si muovono nell'America cosiddetta profonda, nel Maine, nell'Illinois, anche se nel caso di Il mio nome è Lucy Barton c'era anche New York. Come mai sceglie di raccontare sempre quella parte dell'America? Credo perché è da lì che io provengo, è dentro di me. Ma è anche interessante per me usare piccole città dove le persone pensano di conoscersi tra loro, ma non si conoscono davvero. Quindi per me è interessante avere un personaggio che scende in strada e qualcuno che pensa, oh, io la conosco, e un altro dice, anch'io la conosco. Ma in realtà conoscono parti molto diverse della stessa persona. Per questo è interessante e divertente per me poter esaminare un ristretto gruppo di persone. In un'intervista ho letto che lei ha dichiarato che ha iniziato a scrivere per provare a essere qualcun altro, a immedesimarsi in qualcun altro, un po' anche come fanno gli attori. In chi si è immedesimata a questo punto scrivendo questa raccolta di racconti? You know, I never know exactly where my characters come from, but vede, io non so mai esattamente da dove vengano i miei personaggi, ma il mio desiderio è sempre quello di capire cosa si prova a essere un'altra persona. Quindi Quindi tutte queste persone hanno la mia massima attenzione e uso tutta l'esperienza di vita, ciò che ho potuto sentire, ciò che ho assorbito nel corso degli anni. Uso tutto questo per cercare di conoscere in modo veritiero come sono le loro vite. Tutto è possibile è un titolo che ha un significato profondo. Sembra veramente voler indicare le infinite possibilità che offre la vita. Per esempio, c'è un personaggio che si innamora, una donna che si innamora oltre 70 anni. Lei ci crede veramente in questo? E questa è la sua filosofia di vita? Io ci ho pensato e credo che sia possibile che lei faccia questo. Le mie donne, l'età, insomma, ci sono delle situazioni in cui hanno fatto questo, sono andate via. Tutte le scene che vedo, a cui penso e che assorbo, possono poi venire fuori in personaggi diversi. In Tutto è possibile, diversi personaggi hanno, diciamo, delle difficoltà, dei problemi, dei tormenti che riguardano il sesso. Come mai? Well, because for me as a writer, it's more interesting to write about the sexual problems. Beh, perché per me come scrittrice è più interessante scrivere di problemi sessuali che di una vita sessuale appagante. Se fai un gran sesso, bene. Credo che se i personaggi di questo romanzo avessero una bella vita sessuale con le proprie mogli, buon per loro. Ma non sarebbero sulle pagine di un libro perché non è interessante per me. Mi interessano tutti i problemi che le persone hanno. E in questo libro ci sono diversi problemi di natura sessuale. And in this book there are some sexual problems as well. Insomma, le piace scrivere sulle persone che sono un po' ammaccate dalla vita? Yeah, I do. This is what interests me. Sì, è quello che faccio, è quello che mi interessa. Credo che molte persone siano state colpite duramente dalla vita. A me interessa capire come queste persone reagiscano a quello che la vita gli fa. To what life does to them. L'infelicità è sempre più interessante della felicità. Yes. Sì, per me come scrittrice è più interessante della felicità. È anche più facile scrivere di problemi. Penso sia più facile scrivere di felicità piuttosto che di problemi. Si sa, Tolstoi scrisse: tutte le famiglie felici si somigliano. Ogni famiglia è invece infelice a modo suo. Penso che sia vero. Penso sia interessante da esplorare la varietà della infelicità umana. The varieties of human unhappiness. E questa era Elizabeth Strout, ora in libreria con Tutto è possibile, pubblicato da Einaudi. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di fifarro, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Però pure una nuvola di granchio. Il cacciatore di libri. Torniamo con il cacciatore di libri, con questa voce insomma tipica di questo periodo autunnale, me la perdonerete insomma per questa volta. E visto che siamo a quasi un mese dal Natale, dalla fine dell'anno, vi vorrei riproporre un'intervista su quello che è stato uno dei casi editoriali del 2017, ossia Storia della buonanotte per bambine ribelli, scritto da Elena Favilli e Francesca Cavallo, con la traduzione di Loredana Baldinucci, pubblicato da Mondadori. Perché c'è una traduzione? Sì, perché le autrici sono italiane, ma vivono entrambe in California e il libro è nato in inglese. È stato un libro che ha avuto veramente un grandissimo successo nel 2017. Era dedicato a le bambine ribelli di tutto il mondo. Sognate più in grande, puntate più in alto, lottate con più energia e nel dubbio ricordate, avete ragione voi. Allora, in questo libro ci sono 100 storie di 100 donne realmente esistite o ancora viventi, donne forti e rivoluzionarie, ciascuna nel suo campo. Allora, ci sono dei nomi noti come per esempio Cleopatra, Coco Chanel, la pittrice Frida Kahlo, Margaret Thatcher, Michelle Obama, ma ci sono anche nomi meno conosciuti come per esempio Ada Lovelace, la prima persona a scrivere un programma per computer.

questa era Elena Favilli, autrice insieme a Francesca Cavallo di uno dei casi editoriali del 2017, Storie della buonanotte per bambine ribelli, pubblicato da Mondadori. Si chiude qui questa puntata, come abbiamo detto, un po' sottotono del Cacciatore di Libri, sottotono più che altro per la mia voce, non per gli argomenti e per gli scrittori di cui abbiamo parlato. Come sempre, se volete essere aggiornati su quello che stiamo preparando per voi, potete seguirmi su Twitter, su Instagram o sulla pagina Facebook ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.